torniamo quindi in diretta e saluto insomma anche Andrea che tradurrà per noi questa intervista. Allora Ronny, benvenuto. Insomma, non è la prima volta che Ronny viene a questa radio, che viene a Radio Onda Rossa, per cui io ripartirei un po' da dove ci eravamo lasciati qualche tempo fa, mi sembra ormai un anno e mezzo fa o forse due, non con Ronny quattro. Ah, quattro addirittura, pensa della mia memoria. No, con Ronny mi ricordavo due, invece no, niente, addirittura quattro. Comunque, direi se ti va di farci appunto l'ultima volta che abbiamo parlato con te era 4 anni fa, se ti va di farci un aggiornamento su quella che è la situazione e la politica degli anarchici contro il muro dentro Israele, in particolare insomma l'abbiamo seguiti nelle loro battaglie a fianco della popolazione palestinese in diversi villaggi, dire dove esiste e c'è la resistenza popolare, in particolare Belain. Non so se tu hai notizie più aggiornate, ma insomma noi ci abbiamo visto questo video che mostrava un bulldozer che andava via, che toglieva parte della costruzione, cioè adesso non c'è il muro a Belain, ma c'è questa l'inferiata, non so come si chiama, il filo spinato, eccetera, che toglieva insomma parte di questa recinzione, insomma, quindi diciamo che Belain è oggettivamente una vittoria nel tempo, poi lo è stata sempre di più, anche di unione di lotte, di un grande comitato popolare. Insomma, Belain, per chi c'è stato, sono veramente tre case, cioè veramente un posto sperduto, quindi di grande resistenza popolare unita dalla popolazione palestinese e dagli israeliani, in particolare degli anarchici contro il muro. Allora, se ti andava insomma di raccontarci qual è la vostra politica ultimamente e anche un po' la repressione che oggettivamente anche all'interno dello Stato di Israele c'è. Buongiorno, ma sappiamo che stai imparando l'italiano e questo ci fa solo immensamente felici. So first of all I'm thank you for having me and I am part in two types of popular struggles basically. One is the, as you mentioned, the joint struggle, the joint popular struggle, which is happening from within. The other one is the struggle that we are doing from outside, which is aimed at holding Israel accountable to its criminal policies, and basically aimed at respecting the fundamental Palestinian rights. There are three fundamental rights. Okay, tanto per distinguere la lotta popolare in due aspetti, quella interna, che è la lotta popolare appunto al basso diretto, e quella esterna che è mirata a mettere Israele di fronte alle violazioni di diritti umani che commette, che questa è la politica del suo Stato commette, insomma. No, both of these struggles are Palestinian led. And internationals and also conscientious Israelis are welcome to join out of solidarity. And we are absolutely absolutely part of this struggle, but not because I go there to dictate the way that the struggle should be done, but out of sheer solidarity. Entrambi questi aspetti hanno come preminenza i capofila sono comunque palestinesi. In seconda battuta internazionali e, come dire, quelli israeliani che si sentono appunto solidali in questa lotta. E c'è da dire per quanto riguarda gli israeliani che loro non vanno lì a decidere o a determinare le forme, le modalità e gli obiettivi, quanto il fatto di essere in primo luogo solidali con la lotta dei palestinesi. And what is also very important to remember is that this is a popular struggle, meaning a struggle of the people. It is a grassroots initiative, both the struggle from within and the BDS campaign, boycott, divestment and sanctions against Israel, that is happening, which is mainly happening on the outside, and this is an initiative by civil society, not by a political party, one or another. E bisogna sottolineare sempre il carattere popolare di questa lotta, cioè una lotta dal basso delle persone e che ha appunto, che sia la campagna BDS per esempio, che è una campagna che nasce e si sviluppa a partire dalla società civile, non da organizzazioni politiche o apparati istituzionali. Ricordiamo la campagna BDS proprio di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro lo Stato di Israele. Spiegaci un po' anche come cosa sta succedendo proprio all'interno della società israeliana in questi ultimi anni, se ci sono dei cambiamenti. Si parla anche a settembre della fantomatica costituzione di uno Stato palestinese. Qual è la sensazione in Israele? First we have to remember that first let's just give a very brief overview of what is happening and what has happened since 48 in Israel. The state of Israel was founded in 1948 on the basis of ethnic cleansing. The local people of the land, the Palestinians, actually were expelled from that area by force. Most people by now would argue that this was a premeditated ethnic cleansing. And it was also founded on ethnic segregation. So from the get-go, from the very first moment, the Israeli state was founded on ethnic racist policies. Allora, intanto un breve riassunto dall'inizio al 48, e bisogna pensare, riconoscere che la costruzione dello Stato israeliano si è sviluppata attraverso un'opera di pulizia etnica, che oggi si comprende essere stata comunque largamente premeditata, e da una parte, per cui pulizia etnica per espellere popolazioni arabe palestinesi dalle loro terre, e in seconda battuta segregazione, per cui la minoranza araba palestinese in Israele, che è il 20%, che è segregata etnicamente. Per cui questi sono i due aspetti fondamentali alla base della segregazione dello Stato di Israele. So I'm not just saying this for the history lesson, but because this is evident up until today. What we are struggling for is basically to fix all that was caused since 48. After the founding of the state on ethnic racist policies, also came the illegal occupation of 1967. And since then, until today, for 44 years, there is the longest running military occupation in modern time. Per cui questo non è tanto una questione di lezione di storia, quanto per mettere in contesto, motivare la lotta che oggi si fa in Israele e fuori in Palestina, per una lotta per rettificare questi crimini, questa violenza che è stata commessa nel 48, e che dalla pulizia etnica alla segregazione ha portato comunque all'occupazione illegale delle terre in Cisgiordania, territori occupati di Gaza, e sono appunto una che costituisce in realtà da 44 anni l'occupazione più lunga nella storia recente, nella storia. So we are struggling for these basic rights, the three rights. One is obviously the end of the illegal occupation of 67. That is a very clear cut. It's very easy to understand that an occupying power, its only obligation is to stop being an occupying power and treat the people under its control as human beings. So this is the first right of the Palestinians, both in Gaza, in the West Bank, and in East Jerusalem. In Gaza, the situation is far worse because people are totally besieged. Gaza is in the largest open-air prison, one of the most populated places in the world, where Israel controls everything, the border, the sea, the land. It controls as much as how much food will enter Gaza, and they have the Ministry of Defense, so-called Ministry of Defense in Israel, has an equation which states where they equate, they calculate how many calories each person should be allowed to eat. Dunque, ci sono appunto tre diritti, il primo ovviamente su cui si basa la lotta è la fine dell'occupazione del 67, del territorio del 67, e un'occupazione infatti che appunto avvilisce, opprime le persone, per cui la dignità delle persone, ristabilire la dignità delle persone, i palestinesi, e nei territori occupati, ovviamente in West Bank, in Gaza e Gerusalemme Est. Il caso di Gaza poi è un caso, come ben sappiamo, abbastanza particolare, estremo e quasi paradigmatico, nel senso che è la più grande prigione a cielo aperto, ma anche dove appunto Israele controlla tutto, controlla non solo è un controllo minimo, meramente poliziesco e militare, ma appunto questa cosa che è qui il paradigma di Gaza, sì, è il fatto che controlla anche il minimo vitale, regola l'entrata del cibo, dei beni, in base a dei meccanismi di calcolo per garantire il minimo vitale della popolazione. Assicurare il minimo vitale, non che screpi di fame, ma che sia un pilino al di sopra della sopravvivenza. And maybe one more thing to be said about Gaza is that not only the control of food and fuel and so on, also water, for example. 95% of the water in Gaza is not drinkable. It is polluted with the most horrible components like heavy metals and even some radioactive materials were found in the water there. Gaza, come peraltro anche nei territori occupati, no? C'è anche la questione dell'inquinamento e delle risorse molto specifiche, delle risorse idriche, per cui in Gaza il 95% dell'acqua non è potabile, inquinata da metalli pesanti, sostanze radioattive, scarichi e rifiuti di vario genere. Per questo, per esempio, è un'altra specificità di Gaza in quanto politica particolare, che non è un'occupazione ma è un controllo di un territorio in modo assolutamente. So we have to remember that when people were bombed in Gaza during the massacre of the end of 2008, beginning of 2009, they had nowhere to run to, literally nowhere to run to, and this is the situation there. This is on top of everything else that is wrong. It is just beyond words, the situation that is happening in Gaza. A quel punto Gaza è al di là dell'immaginazione, insomma, è un inferno che appunto durante l'operazione cosiddetta Pombo Fuso nel 2008-2009 le persone a Gaza non potevano andare da nessuna parte, erano prese in trappola, no? E questo è appunto è l'infamia anche in cui Gaza rappresenta in questo contesto. Yes, so I mentioned that there are three rights of the Palestinians. The first one is clearly the end of the illegal occupation. The second one is equality inside Israel, because as I mentioned, Israel was founded on the basis of ethnic racist policies. It is what's called a Jewish democratic state, Jewish not in the sense of religion but in the sense of ethnicity. And some Palestinian member of Knesset, an Israeli Palestinian, he said it very nicely. He said that it is a democracy for the Jews and Jewish for the Arabs. La seconda, abbiamo parlato di tre diritti, fine dell'occupazione del 67 con tutti gli annessi connessi, e secondo è eguaglianza all'interno di Israele, eguaglianza a prescindere dall'appartenenza etnica, perché la democrazia di cui si parla in Israele è una democrazia etnica, dove essere ebreo non è tanto la questione religiosa ma proprio etnico. Per cui, come ha avuto a dire una rappresentante del palestinese nella Knesset, del Parlamento israeliano, è una democrazia ebrea, è una democrazia per gli ebrei ed è ebrea per i palestinesi. Esatto. And the third point, the third right of the Palestinians, the second right is of course equality. I mean, we should oppose this Jewish democratic character of the state, which is neither Jewish nor democratic. Israel is not a democracy and never was one to begin with, and we should insist on democracy, we should insist on equality. This is the second right. The third right is the right of the refugees, which are again, the refugees are the outcome of the ethnic cleansing of 1948, and they are still, for more than 60 years now, they and their children and grandchildren are scattered all over the world, and they have a right under international law, like any refugee has a right, to return to their land. E il terzo diritto, secondo diritto era eguaglianza e democrazia reale. secondo, il terzo diritto è appunto il diritto dei rifugiati, cioè che è semplicemente il diritto al ritorno. I rifugiati dal 48 al 67, insomma, il diritto al ritorno nelle proprie, nei propri territori. Now Israel never recognized the right, let alone the practice of return, while at the same time there is another law that was legislated very soon after the founding of the State of Israel, which says that any Jew around the world which has never set foot in Israel has the right to go there and get immediate citizenship. So a Jew who is born in Rome and has never been to Israel in their life can go there and get immediate citizenship, while a Palestinian who was born in Palestine, was expelled from there and is living now as a refugee in Rome, for example, can never go back to their home. E da questo punto di vista sul diritto al ritorno c'è il paradosso proprio del confine, del carattere etnico dello Stato di Israele, per cui dove lo Stato di Israele non ha mai riconosciuto il diritto al ritorno dei rifugiati, di quelli che sono stati espulsi dalle loro terre, palestinesi che sono nati in Palestina, contemporaneamente nello stesso monta, fin dall'inizio Israele ha passato le misure, ha riconosciuto il diritto degli ebrei al insediarsi in Israele, a ottenere la cittadinanza, a ottenere la residenza senza problemi, anche per cui anche un ebreo italiano, argentino, può tranquillamente ottenere la cittadinanza, che non è mai nato, che non è nato in Israele, che non ha mai vissuto in Israele, che non ha nessun rapporto diretto con Israele in quanto Stato, in questo può tranquillamente ottenere residenza, permesso e cittadinanza, diventare israeliano. So it is important to stress these three rights, because when we talk about what is happening, many, many horrible things are happening in Israel-Palestine. And also, luckily, there is also some resistance and the vibrant struggle that is taking place. But in everything that we do, it is important to stress the rights and not the form of solution. It really doesn't matter if there will be a one-state or two-state solution or a confederation or any other or a zero-state solution. In any type of solution, these fundamental rights must be respected, and this is what we should insist on. La questione dei diritti è fondamentale, perché di questi tre diritti, perché la resistenza non si preoccupa tanto della forma istituzionale in cui questi diritti verranno, come dire, incarnati, garantiti, assolti, mettiamolo come vogliamo. L'importante è che questi diritti vengano rispettati, che poi ci sia uno Stato, due Stati, confederazioni, nessuno Stato. Non è questa la cosa rilevante, è comunque l'aspetto sostanziale, questi tre diritti che devono essere garantiti. Dopo le cosiddette rivoluzioni arabe, Tunisia, Egitto, penso anche alla guerra in Libia, penso alla Siria tanto, penso alle alture del Golan, quello che è successo, diciamo questo all'interno di Israele, come è stato vissuto, come penso che ci sia, Israele vive da sempre, insomma, questo senso di accerchiamento, o comunque che continua a professare il senso di accerchiamento e via dicendo. Diciamo, secondo te le politiche reali, io dico reali, del governo egiziano, adesso governo militare, quindi rispetto a Rafah, o rispetto ai rapporti commerciali del metano, del gas fra Israele e l'Egitto, penso alla Siria, penso al Libano, a livello internazionale, diciamo così, secondo te le politiche come sono messe, come in quell'area, cosa sta realmente cambiando qualcosa oppure no? Dico questo intanto perché penso, insomma, anche che sia fondamentale per i diritti, insomma, quello che parlava, insomma, per la lotta della popolazione palestinese, poi che anche gli stati vicini alla Palestina in questo momento possano cambiare le politiche, sempre molto collaborazioniste con gli Stati Uniti d'America e poi ovviamente con lo Stato di Israele. So the very good thing is that things are changing. I'm not sure which way it is heading, but certainly things are happening and things are changing. Even if it is just to inspire people, people are being inspired by what has been happening and is still happening in the Arab world. And I really support them whichever way I can. I think it is extremely important what is happening. The reaction in Israel was quite the contrary. In Israel, first of all, they try to portray these revolutions or struggles as fundamentalist ones, being led by the Islamic Brotherhood and so on. E anzitutto voglio dire il fatto che le cose stiano muovendo, che c'è un cambiamento, anche se non si sa dove questo cambiamento porterà, è comunque positivo, nel senso che comunque questi movimenti ispirano la possibilità di agire, di fare qualcos'altro, il regno della possibilità, appunto, no? Che è quello che ci piace sempre. E anche solo appunto per la dimensione semplicemente veramente simbolica di aspettative che mette in moto nella regione. Per quanto riguarda, guardando all'interno di Israele, chiaramente questa, la reazione, diciamo, mainstream in Israele è stata assolutamente contraria a questo, nel senso sono similmente stata rappresentata, come tra l'altro sappiamo abbastanza bene, come una come dei movimenti egemonizzati dal fondamentalismo islamico, per cui, no, che chiudevano piuttosto che aprire. Now, the second thing that happened in Israel is that there is great fear, and you can see that in many ways that the parliamentarians express themselves about the genuine democratic sentiments in the Arab world, especially in Egypt. Egypt used to be a great friend of Israel. We have to remember that Israel receives money from the US as much as all other countries in the world combined. This is as much as Israel is important to the US. But the second country in line is Egypt. So Egypt basically played ball with every violation and oppression carried out by the US and Israel, and this is a big change in that respect, in the change of US-Israeli policy of occupation and oppression. Secondo aspetto, la reazione di Israele è stata proprio specifico e legato anche alla paura che ha generato questa rivolta, soprattutto la rivolta in Egitto, dove appunto questa c'è l'accenno di modificare, una modifica di cambiamenti, mette in, dal punto di vista italiano, in pericolo il ruolo dell'Egitto, che l'Egitto ha avuto. Noi teniamo conto, si tenga conto appunto, che Israele, gli aiuti USA a Israele sono di più di tutti gli aiuti che gli Stati Uniti danno, forniscono finanziari ai paesi dell'area. Per cui questo dà la cifra, come dire, dell'importanza di Israele per gli Stati Uniti. Dall'altro punto però teniamo conto che immediatamente dopo Israele viene l'Egitto, e l'Egitto appunto dalla pace con Sadat, insomma, che in Israele è stato un partner fondamentale con Israele nella regione. E questo, il fatto che questo patto venga messo per effetto della rivolta in discussione, in crisi, questo genera una grossa paura in Israele. And the third thing that happened is quite the obvious the obvious racist attitude towards the Arab world, which clearly exists in Israel. And this is again very interesting, because I mentioned before that there is real genuine tendencies there, but these are absolutely disregarded in the Israeli mainstream media, and everything that is being discussed is only about some sort of a hidden agenda of why these revolutions are taking place, but there was no discussion, as far as I could see, about you know, the basic thing that we understand, that these people who have been for so long under oppression, which was totally backed by the US, are now finally having a say, and I think it is very it was surprising to most people. I mean, no one expected that these things could happen in Egypt, of all places. And I think this discussion of how this could happen in Egypt is interesting, because something is happening under the surface. And this thing that is happening under the surface that we are not aware of, but it is taking place, eventually erupted in Egypt. And I believe that this discussion is could be detrimental to Israel, because obviously things are also happening under the surface in Israel. And there is a great concern that these things will erupt sooner or later. Il terzo aspetto, terza dimensione, l'aspetto dell'atteggiamento in Israele nei confronti delle rivolte arabe, e soprattutto anche per esempio nei confronti dell'Egitto, e uno è l'atteggiamento razzista, nel senso che comunque paradossalmente queste rivolte non vengono lette come rivolte contro regimi oppressivi appoggiati dagli Stati Uniti, dal mondo cosiddetto democratico, per cui non richiesta, come dire, di quello che Israele si autorappresenta come democrazia nell'area, per cui non richiesta di democrazia, di libertà, ma come espressione di, diciamo, inconfessabili intenzioni che non hanno niente a che fare con l'autodeterminazione delle popolazioni. Il fatto che qualcosa si stia muovendo, si è mosso, è anche, e qui la dimensione un po', ne torna un po' la dimensione di inquietudine all'interno di Israele, il fatto che questi sono movimenti che nessuno pensava potessero essere trovare la loro espressione in Egitto, potrebbero avere anche un'espressione in Israele. È questo anche la dimensione di inquietudine che accompagna, no, le rivolte arabe. Facciamo un piccolo stacco di musica e poi ritorniamo a parlare. '87.9 sempre Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Stiamo parlando appunto con Ronny degli Anarchici Contro il Muro, stavamo parlando della situazione in particolare dei rapporti tra Egitto e Israele in seguito al cambiamento del governo egiziano, insomma dell'abbattimento comunque dell'andata via di Mubarak e adesso di questo nuovo governo militare. Ronny voleva finire di dire su questo. So I wanted to finish up with speaking about Egypt by saying that there is a difference, and we have to remember that. First of all, the people in Egypt and other Arab countries have been oppressed by their own government. And those who have been oppressed are actually the vast majority. In Israel-Palestine, the people who have been oppressed are basically... I won't say that they are the majority. Actually, the majority are the oppressors, and I'm not talking about the governments. I'm talking about the society, the Israeli Zionist society, which is supporting this oppressive ethnic policy. So this is one big difference. Allora, intanto per ritornare all'Egitto e poi anche per fare un confronto con Israele, no? È quella differenza, appunto, che in Egitto la popolazione era oppressa dal proprio governo, ovvero dal governo, la maggioranza della popolazione. In Israele chi opprime è la maggioranza della società, egemonizzata dall'ideologia sionista, la maggioranza che si riconosce nel sionismo, la maggioranza della società israeliana che opprime una parte della popolazione. The second difference is that the struggle, the oppression, and as well the resistance to this oppression is not something new. Unlike in Egypt, where it all erupted all of a sudden, like we mentioned before, there was always reaction, and on the most part, non-violent resistance to Israeli oppression. And there is a long tradition of this type of resistance. What is happening today, and we are pushing forward with that, is that also the world, the international community, is starting to recognize the legitimacy of this resistance, and actually the illegitimacy of the oppressors. And what is happening in the case of Israel-Palestine is more similar to the process that took place actually during apartheid time in South Africa, where the world sooner or later realized the great illegal policies that were carried out by South Africa. Un'altra differenza rispetto all'Egitto e Israele è che dove in Egitto questa rivolta è stata una cosa, appunto, da tutti gli effetti apparentemente immediata, insomma, covava sì, ma non si era mai espressa in maniera così forte. In Israele c'è sempre stata una resistenza, c'è sempre stata l'oppressione e c'è stata sempre stata una resistenza alla oppressione israeliana. Per questa è una tradizione che continua, che è un continuo processo, un processo che è costante. Quello che è cambiato rispetto all'Israele Palestina è da una parte a livello internazionale un maggior riconoscimento che la situazione è insostenibile, il maggior riconoscimento del carattere ingiusto e illegale, se vogliamo, un carattere di quello che sta succedendo, che quello che Israele fa nei confronti della propria popolazione, la minoranza, e nei confronti della popolazione di cui territorio occupa. E un maggiore riconoscimento che è legato sempre più a quello che è successo col Sudafrica dell'apartheid, dove anche lì un regime dove una maggioranza della popolazione opprimeva un'altra maggioranza, in realtà, però insomma. Allora questo collegamento fra Israele e Sudafrica, l'apartheid sudafricano. So to wrap up this discussion about Egypt and its connection to Israel-Palestine, I would like to read a couple of paragraphs from an article by Omar Barghouti, who is a human rights activist and a BDS activist. And it goes like this. We'll have the translation, right? Yes, you read it and I'll translate it afterwards. Yes. Or okay. Paragraph by paragraph. The first okay, two, maybe right? I can read the whole thing and then. Okay. Okay. It goes like this. I wish you Egypt, so you can decolonize your minds. For only then can you envision real liberty, real justice, real equality, and real dignity. I wish you Egypt, so you can tear apart the sheet with multiple choice questions, what do you want? For all the answers you are given are dead wrong. Your only choice there seems to be between evil and the lesser one. I wish you Egypt, so you can, like the Tunisians, the Egyptians, the Libyans, the Bahrainis, the Yemenis, and certainly the Palestinians, shout, no, we do not want to select the least wrong answer. We want another choice altogether that is not on your damn list. Given the choice between slavery and death, we unequivocally opt for freedom and dignified life. No slavery and no death. Ok, questa è la traduzione, tradurre questa lettera di Barghouti. Omar Barghouti. Vi auguro un Egitto così che voi possiate decolonizzare le vostre menti, perché solo quando voi potrete vedere potete prospettarvi la vera libertà, la vera giustizia, la vera eguaglianza, reale uguaglianza e la reale dignità. Vi auguro un Egitto così voi possiate stracciare questa lista di risposte multiple. No, del cosa volete, perché tutte le risposte a questa domanda a cosa volete, queste risposte multiple e fisse, perché tutte le risposte che vi sono fornite sono sbagliate. L'unica vostra scelta è quella di essere, poiché l'unica vostra essere è tra il meno peggio. Aiuto, sei bloccato. Ah, ok. Vi auguro Egitto. Così voi possiate, come i tunisini, come gli egiziani, come i libici, come i bahrein, come gli yemeniti e certamente come i palestinesi, gridare no, noi non vogliamo scegliere dalle vostre risposte sbagliate, vogliamo un'altra scelta, completamente un'altra scelta che non sia sulla vostra lista, che sia contemplata sulla vostra lista. Vogliamo avere che sia una scelta. Se la scelta è tra la schiavitù e la morte, noi senza inequivocabilmente scegliamo per la libertà e una vita dignitosa, né schiavitù né morte. Bravo. Potrebbe essere stata migliore, eh? Comunque, se sei stanco eccetera, c'è anche qui una fantastica fanciulla che un po' può tradurre, dare un po' il cambio a Andrea se gli va. Allora, prima ha chiamato un ascoltatore che ti poneva due domande. La prima domanda è che è circolato, se tu ne sei a conoscenza, un appello firmato dagli ebrei di origine arabe, che immagino, insomma, non so se appunto vivono o no in Israele, e di solidarietà alla popolazione palestinese e alle sue lotte. E l'altra, un po' se ci parlavi, e così iniziamo anche a parlare nella seconda parte delle domande che ti volevamo fare, un po' se c'è una sinistra israeliana in Israele, e poi ti parlerei, poi insomma andremo a parlare un po' anche dei rapporti appunto dell'Italia con Israele, della campagna BTS. Comunque iniziamo da questo appello degli ebrei di origine arabe. E, insomma, se ne sei a conoscenza, di cosa parla, e se siete in contatto con loro, se questo appello è realmente circolato e quindi ne sei venuto a conoscenza. So I talked a lot about the ethnic segregation inside Israel, and this ethnic segregation apparently is not limited to the separating between Jews and non-Jews. Also among Israeli Jews there is segregation, you know of Ashkenaz and Sephardim and so on. And actually the people who arrived from Arab countries, what's called Arab Jews, like Arab Muslims, they used to be Arab Jews before Zionism. And they had quite a good life, actually. They in the Arab countries, where they fled from Europe, actually, to Arab countries in the past. And what happened is that when they arrived to this new state of Israel, they were told to push aside their Arab culture and not to listen to Arabic music, and basically to adapt to the new culture that was forming, instead of keeping their traditions. Allora sì, ho parlato a lungo delle segregazioni etniche che ci sono all'interno della società israeliana nei confronti dei palestinesi, ma queste segregazioni evidentemente non sono solo limitate a questo, ma ci sono delle divisioni e delle discriminazioni anche tra gli stessi ebrei. Sapete che ci sono ebrei ashkenaziti e sefarditi, e questo è successo anche per quanto riguarda le popolazioni arabe che sono arrivate da altri paesi e che, arrivate in Israele, sono diventati arabi ebrei. Quando sono arrivati in questo nuovo stato nel 48 hanno come messo da parte la loro cultura e si sono adattati a questa nuova cultura che stava prendendo piede nel nuovo stato di Israele. So there are many examples of discrimination, internal discrimination inside Israel between different groups. But instead of talking about all these different types of discrimination, we can, for example, look at the struggle of the Black Panthers. They were had a darker skin. They came from originally from Arab countries, and they were living in the lowest socio-economical level, being oppressed by the system, by the police, and so on. And they took inspiration from the Black Panther movement in the US. And this struggle at the time was very successful inside Israel. And it was the first time that actually this whole notion of internal discrimination was being discussed. So yes, I think there should be solidarity. There is a lot of reasons for solidarity between the Arab Jews that are being discriminated against and the Arab Palestinians. Ci sarebbero molti esempi di questo genere di discriminazioni interna tra i diversi gruppi che ci sono in Israele, ma invece di parlare di questo potremmo guardare all'esempio che ha dato la lotta delle Black Panthers, persone di pelle scura, di origini arabe, che hanno vissuto nei livelli più bassi della società e che sono stati oppressi dal sistema e dalla politica. Ecco, bisognerebbe prendere ispirazione da quelle lotte che poi hanno ottenuto un successo. Credo che ci siano moltissime ragioni di solidarietà tra gli arabi ebrei e gli arabi palestinesi. Forse sarebbe chiarire che c'è stata proprio un'organizzazione, un movimento, cioè da chiarire che c'è stato proprio un movimento negli anni in the 70s, right? 70s, yes, 80s. Yes, yes. Called Black Panthers. Yes. Amico, che è chiamato Pantere Nere in Israele, che faceva e che raccoglieva appunto ebrei di origine araba. Questa è la cosa. And these people who were in the past involved with the Black Panther movement in Israel are still active, and they are still active, of course, with both against internal discrimination, as well as being active in the very, very small peace movement in Israel for the rights of the Palestinians. And you mentioned this letter written by Arab Jews in support of Palestinian rights, and I think the letter is very good, and I think it is very much called for. Unfortunately, this is a very small minority of people who support Palestinians, and even less than that, a very smaller, much smaller minority of Arab Jews. I mean, the Mizrahi Jews who support Palestinians, and I will explain. Ok, queste persone che presero parte a questo movimento, c'è da dire che sono ancora coinvolte in quella che è la lotta, per i diritti dei palestinesi, ancora coinvolte in quello che è questo piccolo movimento pacifista che lotta per i diritti dei palestinesi. Hai menzionato la lettera che questi arabi ebrei hanno scritto in supporto dei diritti dei palestinesi. Credo che sia un'iniziativa molto importante. Sfortunatamente però si tratta di una minoranza veramente ristretta, quella che appunto supporta i diritti dei palestinesi. And what we see happening is actually that instead of having this basis of solidarity between those oppressed on both sides, the ones who are oppressed inside Israel actually usually become the worst oppressors. And the ones who are oppressed inside Israel usually are also, as I mentioned, the ones who are on the lower socio-economical level. Most of them are, yes, Jewish of Arab descent. They are actually much more, in general, of course, much more racist in their attitude, much more leaning to the right wing parties, and also in the army. In the Israeli army, the worst, the most oppressive soldiers are usually those who have Arab background, or even Arab Bedouins. They are usually the worst oppressive soldiers. In termini di la complessità della discriminazione all'interno proprio della popolazione ebrea in Israele, e il paradosso per cui le categorie, i settori della popolazione ebraica più discriminata, per esempio gli ebrei di origine araba, sono quelli che poi sono più razzisti e discriminanti, più violenti nei confronti dei palestinesi. Okay? Cioè, questo è il paradosso. E questo avviene anche all'interno dell'esercito, dove i soldati che esercitano un'oppressione, diciamo, più violenta, più cattiva nei confronti dei palestinesi, sono proprio quelli che hanno un background, delle origini arabe, o ad esempio i beduini. Would you like to talk about the left, if there is yes, left? Yes, sì, parliamo della sinistra israeliana, innanzitutto, insomma, se c'è anche a livello governativo, comunque qua sto governo israeliano è peggio di quello italiano, sono un a caso, insomma, Berlusconi e Netanyahu si trovano molto d'accordo, penso, insomma, la risposta se c'è una sinistra israeliana sia un po' come chiedersi se c'è una sinistra italiana, insomma, le risposte sono abbastanza scontate, però insomma raccontaci un po' che perché poi insomma si parla del sionismo, insomma, che vuol dire anche essere di sinistra o sionisti, e sionisti, insomma, sentiamo di raccontarci un po' di quello e poi parliamo della campagna di boicottaggio e dell'Italia. So first of all, what is being called the peace camp in Israel or the left in Israel are actually our Zionist left movements. And when I say Zionist left, I mean that they still feel very strongly about Zionism. It doesn't matter exactly how they interpret it. What it means is that they are not supportive of equality for all people in the region. And this is the main point. They are, unlike what we talked about in Egypt, that people seek real democracy, real equality, and so on. People who speak about peace inside the Zionist left, they have their version, their conditions of what this peace should look like, and in their. Allora, prima di tutto quello che in Israele viene chiamato il campo della pace o la cosiddetta sionista, cosiddetta sinistra, bisogna dire che è un movimento di sinistra sionista. Intendo dire che sono ancora molto fermi sul sionismo, anche se ci possono essere diverse interpretazioni di cosa questo voglia dire, ma il punto principale è che chi si professa sionista di sinistra fondamentalmente non sostiene l'uguaglianza per tutti, diversamente da quello che è accaduto in Egitto, dove la gente ha lottato per una democrazia e per una reale uguaglianza. Le persone che parlano di pace all'interno di questo movimento di sinistra sionista hanno il loro modo di intendere la pace e comunque alle loro condizioni. And we know these demands, for example, to recognize Israel as a Jewish democratic state. And what does that actually mean? What does it mean to recognize a state as an ethnic state? A state that by law discriminates between Jews and non-Jews, and even more so, discriminates in practice. This is something that shouldn't be accepted in any case, not only with regard to Israel. And this is something that both the right-wing Zionists and the left-wing Zionists feel very strongly about, this Jewish character of the state. And this is something that I also feel very strongly about, because I'm very much opposed to it, and we all should be opposed to it. Parlando per esempio di questa richiesta di riconoscimento dello Stato israeliano come uno Stato ebraico, che cosa vuol dire riconoscere come ebraico questo Stato? Vuol dire una discriminazione sia in teoria che nella pratica, ed è un'impostazione inaccettabile in ogni caso, non soltanto quando si parla di Israele. Da questo punto di vista sia la destra che la sinistra sionista sono molto d'accordo nel appunto riconoscere il carattere ebraico dello Stato di Israele. And what we should struggle for are values which are universal values, like equality and justice. And insisting on equality inside Israel is something that actually, according to the Israeli authorities and the General Security Service of Israel, insisting on equality is regarded as a threat. It is the General Security Service, it said it in court, that anyone who is calling for a state for all its citizens is being monitored, even if they are doing it legally. This is a security issue in Israel when you speak about a state for all its citizens. Quello per cui dovremmo lottare, invece, al contrario, è per dei valori dal carattere universale, come appunto l'uguaglianza e la giustizia. Insistere su questo tipo di lotta all'interno di Israele è proprio opporsi, invece, a un'impostazione che vorrebbe lo Stato caratterizzato da, appunto, dall'ebraicità. C'è da dire che per quanto riguarda la legge israeliana e il General Security Service israeliano, questo va contro la legge, nel senso che chi si batte per uno Stato che rispetti i diritti di tutti viene, diciamo, messo sotto osservazione, monitorato per ragioni di sicurezza. E in questo potremmo entrare nelle associazioni che hanno palestinesi e anche israeliane lanciato la campagna BDS, per esempio, che è stata proprio discussa all'interno della Knesset, del Parlamento israeliano, e è stato deciso dal Parlamento israeliano che questa campagna, andando contro Israele, in qualche maniera le associazioni che la sostenevano dovevano essere bandite, i suoi sostenitori. Vorrei capire, insomma, cosa è successo. Poi ci ha telefonato un'ascoltatrice chiedendoci che fine hanno fatto le donne in nero. First of all, there is the BDS campaign, which was founded in July 2005, exactly 1 year after the decision by the ICJ, the World Court in Hague. The decision by the International Court of Justice stated very clearly that the whole of the wall is illegal and the whole of the occupied territories are actually occupied Palestinian territories. And 1 year later, Palestinian civil society came out with this call for international people to support boycott, divestment and sanctions against Israel. Allora, prima di tutto c'è la campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che è stata lanciata nel luglio del 2005, giusto un anno dopo la decisione, diciamo, della Corte Internazionale di Giustizia, che in modo molto chiaro ha dichiarato l'illegalità sia del muro che dell'occupazione del 67 dei territori palestinesi. Giusto un anno dopo, appunto, questa decisione, la società civile palestinese ha lanciato un appello alla società civile internazionale perché supportasse la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. This is a call by Palestinian civil society, which is supported by over 170 different organizations, including women organizations and academics and worker unions and so on. And also the political parties are supportive of this. So basically, even though there is so much friction among Palestinian society and especially among the political parties, around the BDS campaign there is a consensus. This is the only thing probably that does have a consensus. È importante sottolineare che è un appello lanciato dalla società civile palestinese, che poi in seguito è stato sostenuto da oltre 170 diverse organizzazioni, accademici, partiti politici, sindacati. Ed è importante dire che anche quelle realtà che magari tra di loro avevano delle frammentazioni, delle differenze, hanno trovato un consenso e un accordo sul supportare il BDS. And what the call asks for is that until the three fundamental rights of the Palestinians are being respected, the ones that we mentioned before, pressure should be applied on Israel. And there are guidelines of how to apply this pressure, or what is boycottable and what is not boycottable. And I'm here to state very clearly that this boycott is not, clearly not anti-Semitic, but not only that it is not anti-Semitic, as many would like to claim, it is not even against Israelis. It is only against the Israeli institutions. So it is a very unlike the boycott of apartheid South Africa at the time, which was a boycott against everything South African. This Palestinian call is a very responsible call, and it is aimed at the criminal Israeli institutions and those who are representatives of these institutions. Quello per cui fa appello questa chiamata al boicottaggio è di fare delle pressioni su Israele fino a che i tre diritti fondamentali del popolo palestinese che abbiamo prima menzionato non verranno rispettati. Esistono delle linee guida molto precise su che cosa è boicottabile e che cosa non lo è. Bisogna dire prima di tutto in modo molto chiaro che non si tratta di una campagna di stampo antisemita, perché non è rivolta contro la popolazione israeliana ma contro le istituzioni israeliane. In questo si differenzia anche da quella che fu la campagna di boicottaggio nei confronti dell'apartheid in Sudafrica, in quel caso tutto ciò che era sudafricano era boicottabile. In questo caso invece i palestinesi hanno fatto un appello veramente molto responsabile, che si indirizza in modo particolare verso le istituzioni criminali dello Stato di Israele e tutte le sue emanazioni. And boycott can be economic, of course, and we are targeting these companies that are clearly in violation of international law and human rights, such companies that are actively building the wall and the security apparatus of Israeli oppression, the companies that are involved with the building of settlements, illegal settlements, and so on. Il boicottaggio può essere di tipo economico, naturalmente, e come target ha quelle industrie, quelle compagnie che sono in chiara violazione del diritto internazionale e dei diritti umani, come per esempio quelle industrie o quelle società che possono essere attive nella costruzione del muro oppure nei sistemi di sicurezza che Israele usa nella sua occupazione, oppure quelle che sono attive o producono all'interno delle colonie israeliane dei territori occupati. And basically what we are saying is we don't ask for people to not even to help the Palestinians. We just say do not take part in crime. If there is a company like Pizzarotti in Israel, in Italy, which is working to dig tunnels where they are passing the new railways between Jerusalem and Tel Aviv. And this Italian company is digging these tunnels in occupied Palestinian territory. This is in violation of international law, and this is taking away Palestinian land and will actually cause a new wall to be built in order to so-called protect the new railway, which is in stolen land. And what we are telling Pizzarotti, for example, is don't help the Palestinians. Just don't take part in crime. As simple as that. Quello che chiediamo fondamentalmente non è di aiutare i palestinesi, ma di semplicemente non essere complici nei crimini. Faccio l'esempio della Pizzarotti, una compagnia italiana che sta costruendo una parte dei tunnel che serviranno alla ferrovia ad alta velocità che collegherà Tel Aviv e Gerusalemme. Faccio una parentesi dedicata insomma esclusivamente a israeliani, anche se attraversa i territori occupati palestinesi. Beh, in questo caso la costruzione di questa ferrovia sulla terra palestinese è una chiara violazione della legalità internazionale, porta via terra palestinese, oltretutto verrà costruito un nuovo muro per proteggere la nuova ferrovia. Quello che in questo caso noi chiediamo alla Pizzarotti non è di aiutare i palestinesi, ma semplicemente di rifiutare di essere complici di questo crimine. Women in Black. Women in Black. Sì, allora vai. No, aggiungo solo e se puoi parlare che sei solo la traduttrice. C'è una campagna anche in Italia. Anche in Italia contro la Pizzarotti, si chiama Stop the Train, fermate quel treno, c'è un website e potete trovare tutte le informazioni. Perché è stata fatta una petizione comunque contro la Pizzarotti, sono state fatte anche delle manifestazioni proprio perché è un'azienda italiana che alcune aziende hanno rinunciato, per esempio, a costruire questa ferrovia, per esempio, secondo me i francesi, se non mi sbaglio. E mentre la Pizzarotti di questo poi secondo me i grandi rapporti tra Italia e Israele che negli ultimi anni si sono tanto sviluppati, tanto che insomma, in Italia parlare di Palestina e di palestinesi comincia ad avere insomma negli ultimi tempi le sue difficoltà, e però di questo insomma poi ne parleremo. Io non so, quando Ronnie è stanco diteci, perché qua potremmo continuare a parlare per ore. E quindi Stop the Train è il sito dove si può firmare, penso, questo appello proprio alla Pizzarotti per rinunciare alla costruzione di questa galleria. Io volevo approfittare per lanciare dei siti, uno è il BDS Movement, dove si trovano appunto .net, dove al suo interno ci sono tutte le campagne appunto che diceva Ronnie di boicottaggio, da quelle accademiche a quelle alimentari, e in particolare insomma la campagna di Stop Agrexco, che è questa compagnia alimentare appunto soprattutto di frutta eccetera, che ha costruito le proprie piantagioni in posti occupati illegalmente, appunto, dove sono le colonie in particolare. E maybe about Agrexco, there is a recent news that actually it was published that there are some financial difficulties with Agrexco. We don't know yet if this is related or how much it is related to the boycott campaign, but definitely, you know, we should be, you know, listen carefully to the things that will happen in the near future with regard to Agrexco, because they are in financial difficulties. Sì, riguardo la Grexco è stata di recente pubblicata una notizia per cui la compagnia sarebbe in difficoltà economiche. Non possiamo sapere quanto questo dipenda dalle pressioni della campagna di boicottaggio, però dobbiamo, diciamo, seguire quelli che saranno gli sviluppi della situazione. E, vabbè, parliamo un secondo di questa cosa delle Women in Black e poi ti volevo chiedere, insomma, in Italia nell'ultimo mese si è parlato molto del pinkwashing per quanto riguarda tutta la comunità LGBT. C'è stato l'Euro Pride in Italia, a Roma in particolare è stata portata avanti una campagna sul CTS, che è l'agenzia di viaggi per i giovani, che ha fatto l'anno scorso insieme al Ministero del Turismo israeliano una campagna Il Bello di Israele. C'è questa immagine di Israele come luogo piacevole dove trascorrere le proprie vacanze e anche di luogo piacevole per tutta la comunità gay, lesbica, trans e via dicendo, come un luogo che possa accogliere, lo abbiamo ritrovato anche dentro l'Euro Pride. Sono state fatte anche delle azioni, insomma, contro in particolare il CTS e un'altra compagnia, Quick, non mi ricordo come si chiamava adesso, mi sfugge, e proprio, insomma, contro stand che in qualche maniera portavano avanti questa immagine turistica di bellezza, di luogo accogliente appunto di Israele. Il CTS l'anno scorso, grazie, poi anche qui insomma, non si sa, ha rinunciato a questa campagna Il Bello di Israele. Tuttavia all'interno insomma, continua a essere però un operatore molto ben riconosciuto, perché ovviamente si rivolge ai giovani e che sono ovviamente anche quelli a cui è più facile anche, no? Diffondere una certa visione dello Stato di Israele, che oggettivamente, insomma, chi va a Tel Aviv oggettivamente può trovare diverse forme di divertimento. E allora parliamo un secondo però di questa cosa Women in Black e poi casomai di questa questione del pinkwashing, comunque anche della. Ma. So my answer to the Women in Black is very simple. I love the Women in Black. I think they are wonderful, wonderful bunch of people, both women and men. And I was received with like, you know, very warmly speaking here in Italy by the women in Genova and Alba in Piacenza and other places, and I was very touched by their commitment and so, and the real sense of you know, solidarity, and I think it is really beautiful to see this, so, you know, I just want to say very good things and just to tell them to carry on doing what they are doing. And and I think that we have to remember that this is about solidarity. I mean, we are the privileged people in this region. I am here as a privileged Israeli Jew. I am sitting at the top of the pyramid in Israel, a white, male, Ashkenaz Israeli Jew. And that is why it is a little more difficult to persecute me. The authorities are trying, but it is a little more difficult for them. And we mentioned before that there is a new law, for example, that they are legislating against boycott, but we can talk about that later. Now, I am a privileged Israeli Jew, but we are all privileged here, and we have a voice, and we should use this voice. And I think it is very nice to see that women organize and bring out this voice. And it doesn't matter, the numbers are not that important, but what is important is that the message is clear, and the message is really about the most basic rights of people that we insist on. And these are things that we should insist on. We shouldn't some things we shouldn't compromise on. Others we can, other political issues we can compromise on, but the basic fundamental rights of people are things that we should insist on. And we have the duty actually to do that. Ah, riguardo alle donne in nero, che cosa posso dire? Le adoro, sono meravigliose, sono stato invitato da loro molte volte in Italia a parlare, è stato molto bello, sono rimasto veramente toccato dal loro impegno e dal loro senso di solidarietà. Quello che posso dire è insomma incoraggiarle ad andare avanti come tutti gli altri movimenti di solidarietà. È importante dire che io sono un privilegiato, sono un ebreo israeliano uomo bianco aschenazita privilegiato, e anche nonostante le nuove leggi che Israele sta cercando di far passare, per me è più difficile essere perseguitato, però lo siamo tutti e come privilegiati abbiamo il dovere di alzare la voce. Non è importante il numero, quanti siamo, è importante il messaggio che lanciamo, insistere sui diritti fondamentali della popolazione palestinese senza compromessi. Altri forse possono scendere a compromessi, noi no. Now about the second question. I need a reminder, it was about pinkwashing. Yes. No, innanzitutto, se diciamo questa campagna pinkwashing dentro Israele è conosciuta e via dicendo. So we mentioned before that there is the economic boycott, the call for economical boycott, but there are many other forms of boycott which are just as important and maybe even more important, and most of them are actually on the symbolic level. There is, apart from economic boycott, we have a cultural boycott and academic boycott and sports and other forms. Now, about academic boycott, we have to remember, just like when I mentioned before, that the boycott is against Israeli institutions, but not against Israelis. The academic boycott is a boycott against the academic Israeli institutions, where every single university in Israel is complicit in crime in many, many ways. You have two universities that have a military base on campus. You have special courses to soldiers. You have research that is funded by the Ministry of Defense, and on and on and on. So every university in Israel is complicit in crime. It does not mean that we work against academic freedom. Academics in Israel are welcome to take part in conferences and so on. They are not welcome to come as representatives, as ambassadors for their universities. This is the difference. Allora, riguardo il pinkwashing, abbiamo parlato prima del boicottaggio economico, ma ci sono molte altre forme possibili di boicottaggio che diciamo agiscono a un livello, se vogliamo, più simbolico, cioè il boicottaggio culturale, sportivo e accademico. Riguardo a quello accademico, è bene specificare che è rivolto esclusivamente contro le istituzioni accademiche. C'è da dire che tutte, ogni singola università israeliana è complice nei crimini di guerra. Alcune università addirittura hanno al loro interno delle basi militari o dei corsi speciali per soldati, o comunque sono coinvolte in ricerche finanziate dal Ministero della Difesa. Questo non vuol dire che siamo contro la libertà degli accademici di andare in giro per il mondo a parlare, ma non sono i benvenuti quando lo fanno come ambasciatori di queste istituzioni complici nei crimini di Israele. And then we have the cultural boycott. And as the Israeli group that I am part in, I'm taking part in a group called Boycott From Within. We write many letters to performers who come to perform in Israel. And we ask them to take a stand. Because actually, one way or another, whether they choose to come or not to come to Israel, they take a stand. There is by now a very clear line drawn, a picket line, and they have to choose which side of the line they are on. If they come to Israel, their performance will be used by the Israeli propaganda machine as an unconditional support of Israeli policies. Even if they are critical of Israeli policies, by their arriving in Israel, it is being used, and we saw it happening many times by the Israeli propaganda machine. Riguardo poi al boicottaggio culturale, faccio l'esempio di quello che facciamo con il mio gruppo israeliano che si chiama Boycott From Within, boicottare dall'interno. Abbiamo scritto moltissime lettere a diversi artisti che pianificavano di venire a fare le loro performance in Israele. Noi chiediamo una presa di posizione chiara, perché quando gli artisti scelgono di venire è bene che sappiano che le loro performance in un modo o nell'altro saranno utilizzate dalla macchina di propaganda israeliana. C'è come una linea molto chiara, loro devono scegliere da quale parte stare, perché anche se loro personalmente sono critici nei riguardi di Israele, rischiano che il loro arrivo venga usato come propaganda. Prima ha chiamato un ascoltatore dicendoci che forse aveva letto molto che Yellow Biafra stava venendo in Israele. Speriamo, noi che siamo molto affezionati come radio all'ex cantante dei The Kennedys, nonché insomma ha fatto tanti concerti per Radio Onda Rossa. Speriamo insomma che questa notizia non sia vera, faremo di tutto per evitare che venga in Israele. So yes, we wrote an open letter to Yellow Biafra and yes and he is planned to come. Unfortunately it seems like at this time he is not going to change his mind. Hopefully he will come to senses. And we should carry on writing to him, we should carry on explaining, and this is happening in many cases where artists say, you know, my message is a message of peace, and I am not there to entertain the Israeli institution, I am there to entertain the Israeli public, and on and on. But as I mentioned before, by arriving to an apartheid state, we didn't talk about apartheid yet, but Israel does fall under the legal definition of apartheid as defined in the Rome Statute. By arriving, this is giving a green light to apartheid and to occupation. And what we insist is that these artists take a stand against these crimes until a better time. Until a time where they will be able to come and perform without sending a green light to and sending a message of business as usual with the current policies of the Israel. Sì, è vero, abbiamo anche scritto con il nostro gruppo una lettera aperta a Yellow Biafra, ma sembra che per questa volta sfortunatamente non abbia intenzione di cambiare idea. Noi naturalmente andremo avanti. Capita molto spesso che quando scriviamo agli artisti, per esempio ai cantanti, ci rispondano sì, ma con la mia performance lancio un messaggio di pace, oppure non mi rivolgo alle istituzioni israeliane ma al pubblico israeliano. Questo può essere vero, ma anche soltanto scegliendo di arrivare in uno stato di apartheid, come nei fatti è lo stato di Israele, è come dare il semaforo verde, insomma il via libera a che questo apartheid vada avanti. Quello che noi chiediamo è una presa di posizione molto forte, non per sempre, ma fin quando non sarà possibile che loro portino avanti le loro performance per tutti e non in uno stato di apartheid. And we have to remember that Israel invests a lot of money and a lot of energy in many forms of cultural events and other events, and even by their terminology they are doing this in order to rebrand Israel, to give a different image of Israel, because the BDS campaign is, I mentioned that it started in 2005 and it is very, very successful. In this relatively short time there are many successes with the BDS campaign, and maybe the greatest success is that the image of Israel is changing in worldwide perspective, and it is, people are starting to realize that it is a criminal apartheid state, and Israel is now reacting to this. So there is pinkwashing and greenwashing and all kinds of colors of washing. E è importante dire che Israele investe moltissimi soldi ed energie in eventi culturali finalizzati a lanciare una nuova immagine ripulita dello Stato. E questo anche perché la campagna di BDS ha avuto in un tempo relativamente breve un enorme successo, e forse il più importante è stato proprio quello di riuscire a cambiare l'immagine di Israele. Le persone hanno iniziato a capire che si tratta di uno Stato criminale e di apartheid. E quindi Israele reagisce a tutto questo attraverso il pinkwashing, il greenwashing e tutti, diciamo, i lavaggi di tutti i colori possibili. Allora, diciamo che insomma sono quasi le due, quindi probabilmente insomma anche per Ronny sarei anche stanco, eccetera. La cosa che ti voglio dire è arrivare un po' all'Italia. Diciamo che questo pinkwashing in Italia ha funzionato benissimo, nel senso, negli ultimi anni, soprattutto da un governo, insomma, un governo di destra, un governo molto di destra, in cui ci sono al suo interno anche dei noti fascisti, è diventato uno dei, dall'andata di fine, insomma, ormai di diverso tempo fa, è diventato uno degli stati alleati maggiori di Israele. Penso anche al nostro sindaco Alemanno, un sindaco che ha la celtica al collo, in segno dei beati anni passati di militanza nell'estrema destra, è diventato insomma onorario della campagna per Shalit, per la liberazione di Shalit, incontra istituzioni israeliane in tutto il giorno. Quindi diciamo che in Italia questa cosa ha funzionato tantissimo. Quindi, e contemporaneamente ovviamente è diventato sempre più difficile manifestare a fianco della popolazione palestinese. La rete romana di solidarietà per la Palestina ha avuto delle difficoltà proprio riguardo a Shalit l'anno scorso, andando al Campidoglio è stata aggredita proprio anche dalla comunità ebraica, eccetera. Quindi c'è anche una insomma, però contemporaneamente si sta sviluppando una coscienza, diciamo così, all'interno insomma di alcune persone ebree del diritto di critica allo Stato di Israele. Cioè, non avere la possibilità di criticare lo Stato di Israele, cioè il diritto di critica di uno Stato senza essere tacciati di antisemitismo, che deve, secondo me, nascere principalmente da appunto gli ebrei, in questo caso in Italia, e poi ovviamente da tutti quanti, è una pratica che piano piano si sta diffondendo. Volevo capire un po' tu come hai trovato l'Italia, anche andando in giro. Penso insomma che il tuo andare in giro non sia così semplice, e no, comunque le tue parole sono abbastanza forti e sono all'interno della stessa comunità che si le rivolgi molto alla stessa comunità ebraica, che non è mai tranquilla nell'accettare le critiche. E quindi insomma volevo capire un po' come hai trovato l'Italia in questi anni, visto che conosci insomma bene o male l'Italia, ci vieni da diversi anni. Let's just say like a couple of words about greenwashing and pinkwashing and so on. Greenwashing, for example, Israel boasts as developing ecological, being very eco-friendly. It's true that they develop the technology, but they don't use it inside Israel. We don't even separate the garbage in the house. But they do sell it abroad, and they do sell it to make money, but they also sell this green image. The same goes for pinkwashing. Tel Aviv, where I live, is regarded as a gay haven. It is true that gay people have a relatively good time, and it's a relatively liberal place for gay people in Tel Aviv. But even that is very limited. So only if you are, a gay man who goes to the army for gay people it is much easier than for queer and transgenders and others, who will not get the same type of liberal attitude in Tel Aviv. And we also have to remember that Tel Aviv is the only liberal city, is the only modern city in the world that is Arab free. As much as it is liberal towards gay people, it is very not liberal towards other ethnic groups. Giusto per dire ancora un paio di cose sul pinkwashing e sul greenwashing. Israele è vero che è molto eco-friendly, voglio dire, si è molto spesa per lo sviluppo delle tecnologie ecologiche, però non le usa in Israele. Noi per esempio in Israele non facciamo la raccolta differenziata, vende questo genere di tecnologie all'estero, sempre per diffondere un certo tipo di immagine. riguardo al pinkwashing, Tel Aviv è considerata un po' il paradiso dei gay. È vero che si tratta di una città estremamente liberale e dove possono, diciamo, spendere del tempo piacevole, ma anche questo è molto limitato e ristretto a una determinata categoria di gay, che sono magari quelli maschi che poi comunque servono nell'esercito. Per la popolazione queer, LGBT o transgender non è altrettanto facile. Ed è, c'è anche da dire che Tel Aviv è l'unica città liberale nel mondo che è libera dagli arabi, quindi è liberale ma soltanto per alcuni. And about about your other question about criticism of Israel that is being tagged immediately as being anti-Semitic, I think that this is maybe the last excuse that that exists now for Israel, that any criticism is being tagged as anti-Semitic, and unfortunately also even in the definition for anti-Semitism, the EU definition of anti-Semitism, there is reference to criticism of the state of Israel, as if there is a connection between criticism of the criminal policies of the state and racist tendencies towards Jews. And we should object this very strongly, this type of correlation. Riguardo alle critiche a Israele, all'antisemitismo e questo fatto che appunto ogni critica nei confronti dello Stato di Israele venga tacciata di antisemitismo, credo che sia veramente l'ultima scusa che è rimasta, ed è importante anche insistere sul fatto che anche la definizione dell'Unione Europea di antisemitismo si riferisce a Israele e non a politiche criminali o discriminazioni statali. And actually trying to claim that criticism of Israel is actually criticism or hatred against Jews is in itself racist and anti-Semitic. Because, first of all, treating the whole Jewish people around the world as this like monolithic group that is necessarily in favor of occupation and apartheid, that is in itself is a racist claim. I mean, we don't say that about actually, it is quite common to say racist claims about all Muslims around the world, but it is just as racist. When I say that all Muslims are terrorists, it's just as saying as actually all Jews are supportive of the criminal policies of the state. We shouldn't accept this. This is a racist claim. And secondly, this is also putting Jews around the world in jeopardy. This is actually putting them at risk. So Israel is the one who claims to protect the Jewish people, but actually it is the maybe the main factor that is putting them at risk, because they insist on connecting their criminal policies with people's religion or ethnicity. Inoltre è importante dire che questo collegamento tra le critiche a Israele e l'antisemitismo è di per sé antisemita, è di per sé una forma di razzismo, perché è come un voler considerare tutti gli ebrei nel mondo come un gruppo monolitico che la pensa necessariamente allo stesso modo. Questo è razzismo, è come dire che tutti i musulmani del mondo sono terroristi. Oltre a questo c'è da dire che questo tipo di atteggiamento, questo tipo di pensiero mette a rischio gli ebrei di tutto il mondo. Quindi Israele, che dice di proteggerli, che si professa come lo Stato nato per proteggere gli ebrei, invece li mette in pericolo perché insiste nel collegare le politiche criminali dello Stato con la religione e con l'etnicità ebraica. So I'm here to say very clearly that criticism of the state of Israel is not anti-Semitic. Not only that it is not anti-Semitic, it is very basic, and this is our duty, just like we should be critical of any criminal policy of any state, especially a state which is inherently racist, ethnic racist. Secondly, I'm also here to say that choosing Israeli Jews over Palestinians is also so anti-Semitic, because also Palestinians are of the Semitic family. So this type of this type of preference of one group over another is also has a racist character. And thirdly, we have to make this distinction. And I mentioned before that in the definition of anti-Semitism, they also include criticism of Israel as in one way or another being anti-Semitic. And this is something that we really have to object. What happens is actually that we know that the U.S. supports Israel 100% economically, financially, economically. Anche con Obama. Anche con Obama. Anche con Obama. Non è cambiato il governo Obama. Actually, even more so, I think. But the U.S. supports economically, militarily, diplomatically, in every possible way. It supports Israel in every possible way. I mean, we know that there are the U.S. vetoes UN resolutions against Israel, and you have a yearly vote for the what we call a two-state solution, where you have the whole world on one side supporting this type of solution, and then you have like Israel, the U.S., and a few islands who are against this. And every year, the U.S. vetoes this resolution. This is what the U.S. does. So it is absolutely part of the problem, more than part of the problem. It has a lot of responsibility. Unfortunately, also the EU is very much responsible. Allora, prima di tutto, riguardo alle critiche nei confronti di Israele, voglio dire chiaramente che non è antisemita criticare Israele, ma anzi è un nostro dovere fondamentale, così come criticare le politiche criminali di qualunque Stato nel mondo. In seconda istanza, anche questa cosiddetta scelta degli ebrei come unico popolo semita è una forma di razzismo, perché anche i palestinesi appartengono alla famiglia semita. E quindi questa sorta di preferenza razzista di per sé. Per finire, bisogna assolutamente insistere contro appunto questa definizione europea, perché include nell'antisemitismo anche l'essere critici nei confronti di Israele. Purtroppo abbiamo una situazione internazionale sfavorevole, con gli Stati Uniti che supportano al 100% Israele militarmente, diplomaticamente, economicamente, in qualsiasi modo possibile, anche per quanto riguarda la risoluzione ONU per la soluzione a due stati. C'è tutto il mondo che sta da una parte, e poi Israele, gli Stati Uniti e pochissimi altri che si oppongono. Sfortunatamente anche l'Unione Europea ha delle forti responsabilità in questo. And we are starting now a campaign which is basically aimed at drawing the attention of Israelis who basically point the finger at the US and the EU and their responsibility in maintaining and supporting Israeli occupation and apartheid. And they do this of their own accord. I mean, it is their choice. It is not only that they support Israel, but they do this in violation of their own laws and regulations. Every member state of the EU is in violation not only of international law by supporting Israel, but is in violation of their own laws and regulations, for example, with regard to the association agreement with Israel. There is a legal binding clause saying that dealing with human rights situation and in Israel, and if Israel is in violation of this clause, which clearly it is, every member state of the EU is obligated to stop this association agreement and to make something to fix the situation. And it can do certain things, including sanctions, of course. So they choose to violate their own laws and regulations in order to protect Israel. Dobbiamo studiare una campagna che attiri l'attenzione sulle responsabilità degli Stati Uniti, ma anche dell'Unione Europea, perché questo supporto totale allo Stato di Israele non viola soltanto il diritto internazionale, ma ogni singolo Stato, membro dell'Unione Europea, che supporti Israele, viola anche la sua stessa legislazione interna. Faccio l'esempio dell'accordo di cooperazione commerciale che esiste tra l'Unione Europea e Israele per gli sgravi nei dazi fiscali delle merci israeliane. israeliane che arrivano sui mercati europei. Secondo questo accordo di cooperazione, gli stati dell'Unione Europea sarebbero obbligati a fermare questo accordo, a renderlo nullo nel caso in cui Israele violi il diritto internazionale, cosa che è evidentemente palese, e non solo, dovrebbe anche intervenire fino ad arrivare a delle sanzioni per porre fine a queste violazioni, cosa che evidentemente non fa. Quindi è importante riconoscere e far comprendere che ogni Stato dell'Unione Europea non viola solo il diritto internazionale ma anche la sua legislazione interna sostenendo Israele. And this takes us back to the Italian, your question about Italian politics and the Italian society. And the Italian politicians are clearly supportive of Israel. and this is to say the least. I mean, Italy is a very, very good friend of Israel, as they like saying. You know that, again, militarily and otherwise, I mean, Israel also practices, has a military practice with NATO here in Italy. But apart from that, I mean, the politicians choose to go against their own regulations and to support many things that Israel does, some of which are clearly criminal. The Italian society, I think, what I sense is actually quite the opposite. There is a lot of sympathy towards the Palestinian cause, a lot of interest in what is going on. And this is something that is happening all over the world, where there is such a disconnect between the politicians at the top and the people. The people are voicing the people of the world, especially in Europe and the US, have had enough with Israeli crimes, and they are saying enough is enough. And we have to make this voice heard also up there. Either God or the politicians, whoever will react first. This outcry, public outcry by civil society is very vocal, and it is becoming more and more vocal. And this is affecting also the business community, which is starting to react to this. And thanks to all kinds of boycott and divestment campaigns that are taking place, these business communities are starting to react, and we see this happening. And hopefully by instead of trickling down, it is trickling up, I mean, from the people to the business community, and eventually it will also hopefully arrive at the politicians, where the politicians could end all this, all of this overnight, basically, if they only choose to do so. And we have to make them do it, because at the end of the day, this is their role. I mean, we just have to think of creative ways and to actually make this voice heard, also, you know, at the parliament. Beh, riguardo invece l'Italia, la società civile e la politica, politicamente l'Italia supporta Israele completamente, no? I vostri politici sono molto amici di Israele e questo è evidente. Hanno addirittura appunto scelto di andare contro la loro stessa legge, le loro stesse leggi per supportare Israele. Però quello che vedo in Italia a livello invece di società civile è esattamente l'opposto, cioè c'è moltissima simpatia, interesse, attivismo nei confronti della questione palestinese. Quindi vedo, specialmente in Europa, una forte disconnessione tra quella che è la classe politica e la gente. La gente, soprattutto in Italia, ne ha abbastanza, ha detto quando è troppo per quanto riguarda le violazioni dei diritti del popolo palestinese. Quello che dobbiamo fare a questo punto è far arrivare questa voce fino ai piani alti, farla salire sempre più in alto, arrivare a farla incontrare con quella che è la classe dirigente economica di questo paese per spingerla a reagire, e anche la classe politica. In fondo dovrebbe essere il loro ruolo quello di ascoltare le istanze della società. E su questo possiamo terminare, diciamo, questa lunga chiacchierata con Ronny, anche perché diciamo che questa questione in Italia secondo me non è così semplice, cioè nel senso che è vero, è realmente la società civile eccetera, però ultimamente immagino le dichiarazioni di Vendola, che so che tu stai seguendo, piuttosto che quelle di Saviano, a cui lo stesso Vittorio Arrigoni aveva risposto, insomma c'è stato oggettivamente un cambiamento che va che va tenuto sotto controllo, a cui va risposto, in cui va, cioè, va oggettivamente presa parola anche su questo. Insomma, Vittorio Arrigoni lo fece nei confronti di Saviano quando parlò, gli scrisse insomma da Gaza. E, però insomma, diciamo che con Ronnie continueremo poi a parlare in futuro, visto che insomma anche la sua, i suoi passaggi in Italia sono frequenti.